America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Google cambia il team management, ci sarà Larry Page, uno dei cofondatori con Sergey Brin, che diventerà l'amministratore delegato al posto di Eric Schmidt, che finora aveva guidato negli ultimi 10 anni il gruppo. Eric Schmidt diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, si occuperà di questioni più di lungo termine, di alleanze, di partnership con altre aziende e soprattutto di relazioni pubbliche. E quindi è il debutto, direi, di questo giovane fondatore dell'azienda, che per 10 anni era stato in qualche modo sotto il controllo di un adulto. Ebbene, il ruolo dell'adulto, ha detto Schmidt, è terminato. A questo punto i giovani sono pronti per potersi muovere da soli. Resta comunque una svolta storica per il gruppo, che secondo me ha deciso di posizionarsi in questo modo per confrontarsi con la concorrenza di Facebook, guidata da Mark Zuckerberg, giovanissimo, e dunque sarà uno scontro fra giovani titani, quello che seguiremo da qui ai prossimi 2 anni. The American people are demanding a new way forward in Washington. I'm here to tell you tonight that our new majority will be prepared to do things differently. To take a new approach that hasn't been tried in Washington before by either party. John Boehner, il presidente repubblicano della Camera, ha dato un benvenuto molto tiepido al presidente cinese Hu Jintao. Non solo lui, anche i democratici, anche Harry Reid, il capo della maggioranza al Senato, è stato freddissimo. Anzi, ha fatto, secondo me, anche una piccola gaffe, perché non più tardi di qualche giorno fa, in un'intervista con una televisione di Las Vegas, aveva detto che Hu Jintao era un dittatore e aveva aggiunto che la Cina era controllata da una banda di gang. Un filo di tensione dunque. Poi Hu Jintao è partito per Chicago, oggi visiterà la città del presidente Obama. Non è, dicevo, in omaggio a Obama questa visita a Chicago, ma dipende anche dal fatto che la Cina, pensate, ha dato $1.600.000 alle scuole di Chicago per poter avere 12.000 ragazzi studiare il cinese. C'è anche a Chicago il più importante centro di studi di Confucio del mondo, e soprattutto a Chicago c'è il Chicago Mercantile Exchange, che tratta materie prime, un mercato dove, come sappiamo, la Cina svolge la parte del leone. E siamo arrivati ormai a un bilancio di questa visita di Hu Jintao e ne parliamo con Federico Rampini, corrispondente di Repubblica, autore di un libro, Occidente Estremo, edito da Mondadori in questi giorni in Italia. Buongiorno Federico. Ha incassato qualcosa Hu Jintao? Ma io credo che ha incassato molto, perché dal punto di vista dell'immagine, per la visione imperiale che i cinesi hanno della propria storia, è importantissimo quello che lui ha incassato, ottenendo il riconoscimento di una vera e propria visita di Stato, cosa che non gli era mai stato concesso. Era stato altre volte negli Stati Uniti, ma non c'erano tutti i crismi protocollari e il cerimoniale di una visita di Stato. E quel gala alla Casa Bianca, che in fondo è stata una specie di celebrazione rituale della sua potenza, questa è una cosa che poi in patria, per l'orgoglio nazionalista cinese, conta molto. Qualcuno ha detto che Hu Jintao è un leader debole, è vero? Ora, Hu Jintao non è affatto un leader debole, è più debole di altri leader cinesi solo nel senso che c'è stata un'evoluzione verso una direzione sempre più collegiale, perché la struttura e la tipologia del governo cinese è diventata anche più moderna, più tecnocratica, quindi ci sono delle squadre abbastanza ampie. Federico, ho l'impressione che Hu Jintao in qualche modo non sia stato capito, cioè è venuto con 2 messaggi molto chiari. Uno, ha detto: per i diritti civili noi non siamo contrari in linea di principio, però in questo momento non possiamo permetterci di fare delle trasformazioni epocali nel nostro paese. Abbiamo altre grane, altre sfide di cui occuparci, per cui abbiate pazienza. Sul fronte valutario, comunque insomma qualche passaggio l'ha fatto, al punto che il segretario al tesoro Geithner ha calcolato che in un anno, a partire dal giugno scorso fino al prossimo giugno, potrebbe esserci una rivalutazione dello yuan in termini reali anche del 10%. Ecco, questo il Congresso l'ha un po' ignorato, è vero? Ma è vero che queste cose sono state ignorate o sottovalutate dal Congresso, e questo del resto conferma un limite degli Stati Uniti Cioè, gli Stati Uniti non studiano abbastanza la Cina, e questo è del resto una pericolosa asimmetria, perché la Cina studia l'Occidente molto più di quanto l'Occidente non stia studiando la Cina. Ma esiste una strategia di transizione, così come c'è per la moneta, la convertibilità del renminbi? Esiste a Pechino una strategia che porti la Cina dal tipo di autoritarismo attuale verso qualcosa di un po' più democratico? Io nei 5 anni che ho vissuto in Cina non l'ho vista. Se esiste, la tengono ben nascosta. Io temo che non esista, e questo rappresenta per loro un problema. Federico, proprio a cavallo di questo viaggio di Hu Jintao, l'America si è appassionata a un dibattito avviato da Amy Chuan, che è questa autrice di un libro in cui afferma che il fatto che gli asiatici siano più bravi degli occidentali nelle materie scientifiche, matematiche, ma siano più bravi in generale a scuola, dipende dal fatto che hanno delle madri cinesi molto decise, molto severe, delle madri col frustino in mano. Questo ha creato una polemica negli Stati Uniti senza fine. Allora, è una realtà che esiste davvero in Cina? Sì, esiste, non solo le madri ma anche i padri. La famiglia in Cina ha questo ruolo che esercita una pressione fortissima per spremere dai ragazzi il massimo dei risultati possibili. Ne parlo nel libro Occidente Estremo, perché non bisogna mai dimenticare che il confronto tra Stati Uniti e Cina non si gioca soltanto sul prodotto interno lordo, sulle esportazioni, ma del resto di questo Barack Obama è ben consapevole. I risultati scolastici di oggi preparano la competitività di domani, e dal punto di vista dei risultati scolastici basta guardare le ultime classifiche dell'OCSE, PISA. Il massimo dell'apprendimento della matematica, delle materie scientifiche, oggi lo si trova a Shanghai. Nei licei di Shanghai sono il top mondiale, e gli americani arrivano alla 20ª o 30ª posizione a seconda delle materie. Allora, è vero che una parte di questo è dovuto al fatto che l'ambiente sociale, la famiglia, è molto più severa, molto più autoritaria. Il confucianesimo, la cultura confuciana, perché poi questo è in comune la Cina, la Corea, il Giappone, ha ancora attribuisce un'importanza alla gerarchia e un investimento nella cultura che non c'è più in un Occidente, forse da questo punto di vista un po' troppo decadente, permissivo, lassista verso i ragazzi. Ecco, Federico, davanti a questo atteggiamento così molto severo delle madri cinesi, dei padri, delle famiglie, insomma, cinesi, c'è stata poi una risposta molto divertente, ho trovato, di David Brooks, il quale dice: ma insomma, alla fine non è vero che siano così severi, in realtà sono molto protettivi dei loro figli, perché gli impediscono di andare nel coffee shop, impediscono di andare al bar, gli impediscono di scendere nella piazza dove si devono confrontare con i loro coetanei, e dunque, non facendoli andare e tenendoli su libri di matematica, alla fine non producono dei cittadini completi. È vero? Questo è più vero dell'immigrazione cinese qui negli Stati Uniti che non dei cinesi in Cina, che sono diversi. Io credo che il vero limite nel ragionamento di Amy Chua è quello che il sistema dell'istruzione cinese, così autoritario, non favorisce lo spirito dell'innovazione. È uno come Steve Jobs può avere successo in America, o il fondatore di Facebook, Zuckerberg, o quelli di Google, perché il sistema americano incoraggia il dissenso, mentre quello cinese lo reprime. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno dei Ram, Mine Smell Like Honey. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.